A bordo campo di Dario Ricci. Il gesto dello chapeau rappresenta la profonda ammirazione che 12 personaggi dello sport, ma anche dello spettacolo, nutrono nei confronti delle prestazioni degli atleti Special Olympics, gli atleti con disabilità intellettiva. Ebbene, proprio questo gesto, lo chapeau, l'idea di togliersi il cappello per rendere omaggio, è protagonista del calendario Special Olympics 2012, 12 mesi con 12 sportivi, un unico gesto per sostenere e supportare l'attività di questi atleti particolarissimi per tutto l'anno. Ebbene, protagonista di questo calendario, tra tanti campioni come Stefano Baldini, Alberto Gilardino, Linus, che comunque a suo modo grande maratoneta lo è sicuramente, Maicon, Francesca Schiavone, c'è anche una delle lame eccellenti della nostra scherma, Margherita Granbassi. Ben trovata qui a bordo campo, Margherita. Grazie, ciao a tutti, un grande bacione. Oh, benissimo, partiamo belli carichi, però la prima domanda che ti faccio, Margherita, informiamo, aggiorniamo i nostri ascoltatori, ma anche il sottoscritto, su come stai. Ti so impegnata in una dura riabilitazione per un brutto guaio al ginocchio, dici subito, come va? Dai, insomma, sono passati un po' di più di 4 mesi dall'intervento e adesso diciamo che sto cominciando a camminare bene, per cui è un grande obiettivo, no? Sono quelle cose che sembrano così normali, così scontate, perché le facciamo tutti i giorni, però ci sono dei momenti in cui invece sono delle grandi conquiste, un po' come vincere delle medaglie importanti, per cui adesso insomma sto facendo dei passi in avanti. Beh, del resto poi come si vincono le medaglie importanti, in poche lo sanno come te, basti ricordare il titolo mondiale del 2006 a Torino, il bronzo olimpico a Pechino 2008, quindi sicuramente ritornerai presto in pedana e gli ascoltatori di A Bordo Campo, che sono parecchi, ti sono a fianco. Beh, anche perché quelle altre non ti aspettano, perché la di Francesca, la Vezzali, che poverina insomma, adesso si sta riprendendo dalla disavventura automobilistica, ma sono delle tigri. Sì, assolutamente, infatti la squadra è fortissima e niente, io non vedo l'ora di poterle raggiungere, mi mancano tantissimo, anche se siamo diciamo avversarie, però ovviamente quel mondo mi manca tanto, mi manca il fatto di stare insieme a loro, di sfidarle, di incontrarci, e spero di tornare presto, ce la stanno mettendo tutta anche le persone che mi stanno aiutando in questo percorso lungo e faticoso. Bene, bene, ti auguro di tornare ad infilzarvi presto. Detto questo, immagino che dia anche una carica importante in questo percorso l'essere a supporto della causa degli Special Olympics, ma anche ricevere da questi atleti così particolari la loro energia, vero? Guarda, hai proprio detto bene, ricevi una grandissima energia. Io così ho visto poco fa un filmato che riguardava gli Special Olympics e devo dire che mi hanno dato una carica non soltanto emotiva enorme, ma proprio, hai ragione tu, proprio una grande energia. Da quel momento mi sono proprio resa disponibile, ho imparato a conoscere questa realtà e ho voluto farne subito parte, per cui sono veramente felicissima di essere uno dei protagonisti di questo calendario e ovviamente vorrei cerco di incentivare per quanto possibile tutte le persone che conosco che hanno parenti con disabilità mentale a far parte di Special Olympics. Ecco, aiutaci anche a vedere quella tua foto che poi i nostri ascoltatori potranno vedere sul nostro sito www.radio24.it alla pagina web di A Bordo Campo. Descrivici un po' la foto di cui sei protagonista e dici anche il mese, così andiamo subito a sfogliare quello. Ah, guarda, il mese sinceramente ancora non l'ho scoperto, sarà una sorpresa anche per me perché il mese non lo conosco, però appunto come hai detto tu l'iniziativa è quella di dare un messaggio così tanto di cappello, ovviamente rivolto a tutti questi ragazzi che si impegnano e che ci danno davvero una grande carica e ai quali lo sport dà una grandissima opportunità perché sono esperienze assolutamente importanti. Ho conosciuto anche persone che hanno partecipato alle competizioni Special Olympics e sono rimaste entusiaste, per cui io credo che sia una grandissima iniziativa e ancora una volta lo sport vince su tutto il resto, perché veramente è capace di fare delle grandissime cose. Va anche detto che la scherma, forse più e prima di altre discipline, è quella che si è dimostrata più aperta, più permeabile, no? All'attività degli Special Olympics, ma anche faccio riferimento alla scherma paralimpica. Proprio Torino 2006, vado a memoria, fu la prima edizione che vide atleti diversamente abili e normodotati in pedana negli stessi giorni, praticamente in contemporanea, così come è accaduto fino al recentissimo Mondiale di Catania. Esatto, all'interno della stessa manifestazione ci sono anche le gare per i ragazzi disabili. Io credo che questa sia stata veramente una grandissima conquista. Poi ricordo come il grande entusiasmo con cui riuscivo a seguire i ragazzi, tra l'altro appunto anche quest'anno a Catania, anche lo scorso anno a Parigi, per cui sta diventando assolutamente norma. Io trovo giusto che sia così, e divertente anche oltretutto potersi confrontare tra di noi, perché tante volte capita nelle palestre più attrezzate di riuscire anche a sfidarci, insomma, con gli atleti in carrozzina, ed è sicuramente un allenamento utile per tutti. Ecco, c'è un episodio in particolare di queste sfide che ti rimane nella mente, che ti ha colpito? Ma guarda, non c'è un episodio in particolare, è soltanto la cosa particolare è il fatto che si riesce ad essere assolutamente uniti e un bel gruppo, cioè ora formiamo davvero un gruppo tutti insieme, e questa è una cosa bellissima. Io credo che loro insegnino a noi grandissime cose, la forza di volontà, il fatto di non abbattersi. Io ti dico, con questo infortunio, che nonostante non sia il primo, anzi, della mia carriera, no, perché infatti sono al quinto intervento chirurgico al ginocchio, che poi ne ho subito uno anche alla mano, però adesso sicuramente basta, questo però, intervento. Questo intervento mi ha portato ancora di più a ragionare su alcune situazioni che per me erano ovviamente momentanee, però ho pensato tantissimo a quelle persone che vivono nella quotidianità con le difficoltà che ho avuto io in quel periodo, e sinceramente li trovo ancora più grandi per questo. Per capire anche il caratterino della campionessa che ci fa l'onore oggi di essere nostra ospite, va sottolineato che riempie il tempo libero lasciato dalla scherma e purtroppo dagli infortuni con l'attività di giornalista. Tra l'altro te lo stai vedendo adesso, anno zero su questa nuova piattaforma, perché lo ricordiamo, sei stata protagonista come conduttrice aiuto di Michele Santoro nell'edizione 2008-2009, quindi un po' una precorritrice dei tempi. Sì, guarda, lo vedo, e tra l'altro sono super tecnologica, perché l'ho visto sull'iPad, per cui proprio sono avanti, sono riuscita a seguire le prime due puntate in realtà, e poi per insomma motivi diciamo legati a spostamenti a lavoro non sono riuscita a seguire il proseguo, però appena posso ovviamente li guardo, e mi piace questa idea di vederli in streaming. Ah, benissimo, quindi già proiettata non solo nel 2012 col calendario Special Olympics, ma proprio in un futuro ancora più prossimo. Margherita, però senti, 2012 è anche Londra, sono anche i Giochi Olimpici, Pechino fu il bronzo, credo che a quei cinque cerchi, mentre fai questi esercizi, mentre dai il meglio di te per tornare in pedana, ci pensi come un chiodo fisso. Beh, chiaramente è un pensiero fisso ed è qualcosa di particolarmente stimolante, anche se ovviamente mi rendo conto che sarà un'impresa veramente difficilissima, non soltanto per la situazione in cui sono adesso, ma ovviamente perché ci sono delle altre persone che sono fortissime e che ovviamente hanno questo chiodo fisso anche loro, e quindi ti dico, io ovviamente ho la serenità di sapere che posso lavorare per degli obiettivi, però la cosa importante per me in questo momento è lavorare giorno per giorno e cercare di avere queste piccole conquiste di cui ti parlavo prima, e quindi il prossimo obiettivo sarà quello di riuscire magari a fare una piccola corsetta, anche se penso che ce ne vorrà ancora un bel po', e penso soprattutto a quello, poi il resto si vedrà, è ancora presto per parlare di qualunque cosa. cosa, però in realtà diciamo che all'inizio del 2012 ci dovrebbe essere un'altra sorpresa della quale non posso parlare proprio così molto apertamente, perché non è ancora il momento, però insomma a livello proprio giornalistico ce la racconteremo. Se posso essere minimamente indiscreto, riguarda la vita personale o professionale? Professionale, assolutamente. Ah, benissimo. Allora, poi insomma anche le notizie della vita privata sono ben accette quando sono belle, ma intanto allora manteniamo questo piccolo mistero con l'impegno che poi ce lo viene a raccontare qui a Radio 24 e a Bordo Campo, no? Promesso? Certo, assolutamente, prometto. E allora intanto Margherita, un grande in bocca al lupo per questo 2012 insieme agli Special Olympics, e ti salutiamo ringraziandoti proprio con uno chapeau, perché tanto di cappello a una campionessa con un orgoglio e una voglia smisurate come la tua. Grazie, grazie. A bordo campo. Pronte al sorpasso sono le donne dello sport azzurro. Sorpasso dove e in cosa? Beh, nella classifica degli ori olimpici. Lo sapete, luglio prossimo, Olimpiadi di Londra 2012. Ebbene, già a Pechino nell'ultima edizione nel 2008 lo sport azzurro in rosa al femminile pareggiò ed eguagliò il numero degli ori conquistati con la spedizione maschile. Ebbene, è probabile, gli esperti ci dicono, che a Londra potrebbe esserci il sorpasso. Sarebbe storico. Sarebbe la prima volta con un numero di medaglie d'oro maggiore conquistato al femminile piuttosto che al maschile. Beh, staremo a vedere, però oggi a bordo campo ci divertiamo un po' a sentire come si stanno preparando alcune delle protagoniste della spedizione azzurra verso i Giochi Olimpici di Londra 2012. Partiamo però da un uomo, dal presidente del CONI Gianni Petrucci. USA Today, che è la vera Bibbia dello sport mondiale, accredita l'Italia di ben 34 medaglie a Londra 2012. Abbiamo chiesto al presidente se crede fino in fondo in questa ottimistica previsione. Sentiamo cosa ci ha detto. No, non ci credo. Non posso credere, sarebbe troppo bello. E poi non ci hanno mai azzeccato nelle previsioni, per cui io voglio essere realista. È molto difficile questa Olimpiadi, lo sto dicendo da tempo. Noi ci speriamo di fare bella figura, però sono sogni quasi irraggiungibili, magari fosse, ma non sarà così. Il sogno Roma 2020, presidente, con questa crisi economica è ancora credibile? Molto credibile, perché la crisi ce l'hanno tutti i paesi, per cui non è che si fa una graduatoria più o meno crisi. Io ci credo, perché la squadra è buona, perché siamo determinati. Sarà difficile, ma sarà difficile anche per gli altri, però io sono realista e positivo. Questo è il presidente del CONI Gianni Petrucci, ma ve l'avevo promesso, saranno soprattutto protagoniste le donne oggi a bordo campo. Partiamo da una di quelle squadre femminili che è accreditata dei favori del pronostico a Londra 2012. Parlo della nazionale di ginnastica ritmica, tre volte campione del mondo, argento olimpico ad Atene 2004 e quarta beffata fuori dal podio, probabilmente anche per colpa delle giurie, a Pechino 2008. Ebbene, a bordo campo ha incontrato la capitana delle azzurre, Elisa Santoni. Siamo reduci da poco tempo dal campionato del mondo, che ci ha visto salire per la terza volta consecutiva sul gradino più alto del podio. Difficile riconfermarsi, però ci siamo riuscite nel migliore dei modi e quindi ci siamo straguadagnate il passaggio, ecco, e la qualifica per le Olimpiadi del prossimo anno. Abbiamo ripreso da poco gli allenamenti, quindi ci siamo rimesse sotto con il lavoro, sempre con lo stesso spirito, con la stessa voglia, quindi sicuramente arriveremo al grande appuntamento di Londra super preparate. Tra l'altro quest'anno vi tocca convivere anche col basket, hanno occupato pure il palazzetto di Desio, un po' di qualche problema di coabitazione. Sì, diciamo qualche problema inizialmente di organizzazione, però il nostro lavoro va avanti nel migliore dei modi, ci siamo comunque trovate nuovamente i nostri spazi per lavorare in maniera serena e tranquilla e pensare al nostro obiettivo, quindi nessun problema. Diciamo che condividiamo il palazzetto, ma il nostro lavoro va avanti sempre nel migliore dei modi. Dicevamo dell'amarezza di Pechino per le valutazioni della giuria. Questo quadriennio, da questo punto di vista, come è cambiato? Ci sono stati effettivamente dei miglioramenti o anche a Londra ci sarà il pericolo, la paura di un giudizio influenzato in qualche modo da fattori esterni? Anche i mondiali di Tokyo qualche perplessità l'hanno lasciata. Beh, il lavoro è stato sempre lo stesso, così come ricominciavamo il lavoro da capo ogni anno, lo abbiamo fatto anche l'anno successivo a Pechino. Sicuramente abbiamo avuto quella marcia in più, la rabbia forse di voler dimostrare il nostro valore in pedana che non era stato comunque riconosciuto l'anno precedente. Quindi ci siamo rimesse in gioco nel migliore dei modi. Inizialmente non è stato semplice perché sicuramente la ferita c'è ancora, ma questo è il nostro anno, quindi vogliamo comunque riscattarci e riprenderci quello che ci è stato elevato a Pechino. Tra l'altro Caterina con i 5 cerchi olimpici, si capisce quello che uno ha in testa, ma c'era pure detto che tu forse a Londra non volevi esserci, avevi posto un freno dopo questa medaglia d'oro, forse avevamo capito male. C'è stato un fraintendimento, mi sono espressa male io, ovviamente con la qualifica ci siamo straguadagnate questa Olimpiade e probabilmente il mio percorso finirà dopo Londra, però sicuramente vorrò godermi questo premio, questa meritata, credo, gioia di poter vivere l'emozione ancora dell'Olimpiade. Avversari e outsider sul tappeto londinese? Rimangono sempre le stesse, quelle che abbiamo avuto in tutto questo percorso, in questo lungo percorso di 10 anni. Ovviamente i paesi dell'est, le russe innanzitutto, però ovviamente ogni gara va giocata sul campo, quindi daremo del nostro meglio e speriamo di raggiungere quello che ci siamo prefissate, per cui abbiamo lavorato. Staremo a vedere se Londra 2012 renderà finalmente giustizia alle nostre ginnaste. Voglia di rivincita anche per le ragazze del fioretto femminile, sconfitte nella gara a squadre ai recenti mondiali di Catania dalle russe. Bene, sentite tutta la grinta e il rammarico anche di Valentina Vezzali e Arianna Enrico appena scese dalla pedana di Catania. Il pensiero è corso subito a Londra 2012. Ero un po' scarico e facevo difficoltà a trovare concentrazione. Nonostante questo ho provato a mettercela tutta e diciamo che io non do mai la colpa all'arbitro, perché bisogna essere sempre più forti dell'arbitraggio. E è stato un miscuglio di situazioni, mi dispiace tantissimo perché non mi era mai successo una cosa del genere in una gara a squadre. Le mie compagne hanno tirato benissimo, sono state bravissime, e meglio qui che ai Giochi Olimpici di Londra, avremo un anno per rifarci. Spero che ci arbitrino gli stessi arbitri, questa volta facciamo accendere una lampadina sola così almeno non hanno dubbi. Grazie. E soprattutto la polemica sugli arbitri, soprattutto sull'incontro di Arianna, direi due stoccate sulla. Sì, era abbastanza importante anche perché andavamo sul vantaggio di 35 a 33, quindi era importante. E ne hanno sbagliate due di fila. E del resto il nostro sport è così, non si può fare niente, bisogna essere più forti degli arbitri e per poco stavamo anche vincendo contro di loro. Abbiamo visto in grandissima forma dopo la gara individuale, segno che c'eri, ha dato tanto comunque oggi. Sì, come avevo detto dopo la gara io stavo molto bene, quindi avevo tanta voglia di rifarmi e non è da me, perché un'altra volta forse mi sarei abbattuta e non sarei riuscita a tirare, invece ho dimostrato per prima a me stessa che da qui si ricomincia. Da quando sono under 20 che prendo medaglia, quindi non mi era mai successo. Sicuramente d'esperienza, sicuramente arriverò con un'altra testa. Onore anche alle russe che sono state in pedana fino all'ultimo e l'hanno dimostrato purtroppo. Beh, si sa, loro anche durante l'anno ci danno tanto filo da torcere, abbiamo perso pochissime volte, perdere un mondiale certo dispiace, però come ha detto Valentina c'è l'Olimpiadi, anzi arriveremo molto più convinte. Chiudiamo con quella che potrebbe essere la bandiera, o forse chissà anche la portabandiera della spedizione italiana a Londra 2012, Josefa Idem, 45 anni, verso l'ottava Olimpiade Pagaia con tutta la sua forza, la campionessa della canoa italo-tedesca, ma italiana per amore e per convinzione ormai da tempo. E allora sentiamola Josefa che pagaia proprio con grinta e volontà verso Londra 2012. Ma devo dire che mi sento molto bene, ho risolto per il momento, lo dico per il momento, per scaramanzia, abbiamo sotto controllo la spalla che mi ha dato noia ai mondiali. E sto vivendo un crescendo di voglia di fare, di motivazione, di non veder l'ora di avvicinarmi all'anno clou. Quindi questo è proprio come guidare una macchina e aver cambiato marcia, tutto a un tratto delle velocità più alte rispetto al solito non fanno più faticare, quindi proprio un anno nel pieno della grinta, motivazione e voglia di fare. Quando si vedono là in fondo i 5 cerchi scatta qualcosa nelle braccia e nella testa,